Allora cominciamo subito i lavori del mattino perché siamo molto molto fissi. Pregherei quindi di prendere posto il professor Del Torre, la dottoressa Nuvola e il professor Di Simplicio. Poi faremo una breve pausa, quindi intorno alle 10:15, 11 suppongo, insomma, teniamo la mezz'ora abbastanza rigida per ciascun intervento e infine avremo le ultime due relazioni e la parte conclusiva. Ha quindi la parola il dottor Del Torre. Il tema è quello. Sì, sì, il tema sul programma, mi scuso per la vaghezza del titolo, che in realtà è molto meno ambizioso di quanto non possa far pensare la versione sul programma. Non ho ritenuto in questa serie di ripercorrere le fasi della storiografia sulla fiscalità ecclesiastica. Queste fasi sono state già ricostruite, per esempio in un volume pubblicato dall'Istituto qui a Trento su Fisco, Religione e Stato nell'età confessionale e anche in alcuni saggi degli Annali 9 della Storia d'Italia. Ho pensato quindi di non dedicarmi a un bilancio storiografico, in parte già compiuto, e invece di proporre alcune riflessioni che sono incentrate essenzialmente sulla situazione della Repubblica di Venezia, che a me è più nota e conosciuta, ecco, nella speranza che poi sia che quanto dirò abbia un minimo di utilità per allargare il discorso ad altre aree italiane, se non europee. Il punto di partenza è una scrittura presentata nel 1767 dalla deputazione ad pias causas al Senato veneziano, un dossier che questo organismo creato un anno prima proprio per studiare a fondo il modo in cui lo Stato poteva recuperare il controllo dei settori più delicati in cui operavano le istituzioni ecclesiastiche venete. Questa deputazione dunque in questa scrittura presenta un'analisi complessiva del patrimonio degli ecclesiastici dello Stato. Questa scrittura assai nota soprattutto agli studiosi appunto delle riforme settecentesche, costituì la base di tutti i provvedimenti successivi che il governo veneziano prese nei confronti del patrimonio ecclesiastico. Costituì la base di quella che fu la cosiddetta età delle riforme, cioè di grosso modo gli anni 60, primi anni 70 a Venezia, un'età che vide la Repubblica tra i protagonisti, almeno questo è il giudizio di Franco Venturi, del giurisdizionalismo tra i vari stati italiani. Accanto ai provvedimenti in materia economica, su cui mi soffermerò io, ci sono ben note iniziative come l'abolizione della censura ecclesiastica, l'abolizione la limitazione dei poteri del Sant'Uffizio, l'abolizione della bolla in cena domini, e l'azione contro i gesuiti. L'aspetto più appariscente di questa attività di riforma è però l'azione contro il patrimonio ecclesiastico. Questa scrittura metteva in luce come il patrimonio ecclesiastico fosse un patrimonio gigantesco a giudizio appunto degli estensori, 130 milioni di ducati il suo valore, il valore appunto del patrimonio. Un patrimonio che era tenuto immobilizzato secondo gli estensori, e che sottraeva quindi ricchezza alla nazione. Il suo scarso contributo alle finanze statali non faceva che accrescere il carico che gravava sugli altri contribuenti. Si proponeva quindi di arrestare, impedire, bloccare il passaggio dei beni, il passaggio ulteriore di beni dagli ecclesiastici, scusate, dai secolari agli ecclesiastici, dai laici agli ecclesiastici, scusate, diminuire il peso della mano morta vendendo una parte del patrimonio ecclesiastico e infine ripartire più equamente tra i membri del clero le entrate che il patrimonio ecclesiastico garantiva, per ovviare agli squilibri che esistevano tra le grandi rendite dei grandi benefici e invece la povertà dei piccoli benefici curati. Questo molto rapidamente, solo per inquadrare il mio discorso, che non vuole soffermarsi su questo aspetto, cioè sulle alienazioni e le vendite degli anni successivi. Questa scrittura serve comunque da introduzione in qualche modo alla successiva del 30 dicembre 1768, prodotta sempre dallo stesso organismo, una scrittura complessa e dettagliata che ricostruisce tutta la storia dell'imposizione sugli ecclesiastici a Venezia. Quindi questa è una delle direttrici che prende l'azione riformatrice, anche quella fiscale. In questa scrittura si effettuano conteggi complessi di quanto si è riscosso realmente in rapporto a quello che doveva essere invece il gettito teorico nei due secoli precedenti, quindi grosso modo dalla metà del Cinquecento in avanti. Molto rapidamente devo a questo punto spiegare quale fosse il sistema fiscale nei confronti degli ecclesiastici in vigore nella Repubblica di Venezia. Innanzitutto c'è da precisare che tutti gli ecclesiastici pagavano imposte indirette, cioè le gabelle, i dazi. Questo non era una questione da poco, soprattutto in un'area italiana in cui la imposizione indiretta forniva cespiti molto consistenti allo Stato, soprattutto sotto la spinta delle attività commerciali. E questo accadeva in particolare a Venezia stessa, dove il traffico di entrata e uscita dalla città e dal porto forniva cespiti di grandissimo rilievo, sicuramente molto maggiori di quello che l'intera imposizione diretta poteva fornire. Ecco, gli unici esenti tra gli ecclesiastici erano i conventi mendicanti, non totalmente, ma insomma in gran parte. Dal punto di vista delle imposte dirette, invece, dal 1463 gli ecclesiastici di tutto lo Stato pagavano 2 decime all'anno alla Repubblica. Queste 2 decime nei periodi di scontro più duro col turco potevano aumentare di molto o essere affiancate da imposte straordinarie, cioè vi erano concessioni ulteriori di decime, concessioni aggiuntive, oppure altri tipi di contribuzione concessi dal Papa, in queste occasioni, che si chiamavano sussidi. In particolare, naturalmente, questo accadde durante le guerre di Cipro e le guerre di Candia, quindi seconda metà del Cinquecento e metà del Seicento, che costituirono il momento di maggior impegno militare e quindi finanziario della Repubblica nei suoi domini del Levante. Questi contributi, secondo il Papa, dovevano essere concessi di volta in volta, cioè non potevano essere riscossi senza l'autorizzazione di Roma. E invece Venezia e i suoi consultori in iure, e in particolare Paolo Sarpi e poi i suoi successori, sostenevano invece la perpetuità della concessione di queste riscossioni. In pratica poi il dibattito fu complesso, anche interessante per molti versi, però Non mi pare opportuno fermarmi qui, ecco, in sostanza il risultato di tutto questo fu che il Papa concesse dei brevi ogni 6, 8, poi 16, poi 18 anni, quindi la concessione diventa quasi, diciamo, automatica. Questa decima del clero è molto importante perché colpiva tutti i benefici dello Stato ed era nel sistema fiscale veneziano l'unico tributo di questo tipo, cioè che colpisse tutti i sudditi dello Stato indipendentemente appunto dall'area geografica in cui si trovavano i loro beni. I laici sudditi di Venezia invece pagavano imposte per corpo e per provincia. Tutti questi contributi erano riscossi sulla base di una redecima, che potremmo chiamare catasto oppure estimo, di tutto il clero dello Stato, che venne compilata per la prima volta nel 1463 e poi rifatto nel 1536, 1564 e poi appunto nella seconda metà del Settecento dopo le scritture con le quali ho iniziato il mio discorso. Ecco, quindi mi limito per ora a sottolineare questa distanza tra la redecima del 1564 e quella della seconda metà del Settecento, sono due secoli. Era proprio questa distanza temporale la causa principale, ma non unica, della notevole differenza tra il gettito teorico e il denaro che effettivamente poteva entrare nelle casse veneziane. Infatti in questi due secoli, erano divenuti del tutto inattuali i parametri di calcolo delle rendite in rapporto al valore dei prodotti della terra. La moneta si era deprezzata, la moneta in cui erano fatti i calcoli dell'imposta, e questo deprezzamento era solo parzialmente stato annullato dalla pretesa dell'amministrazione statale di essere pagata in valuta di conto anziché in valuta corrente. La valuta di conto manteneva un valore più stabile. Inoltre, le proprietà del clero rendevano di più perché erano spesso migliorati i criteri di gestione, su questo non mi soffermerei per non andare in un campo vastissimo. Poi erano aumentate anche quantitativamente, sia i vecchi benefici avevano accresciuto il proprio patrimonio con donazioni e lasciti, ma esistevano anche il problema dei benefici di nuova istituzione, che come vedremo era assai importante. Tutte queste variazioni erano raramente recepite dagli estimi e quindi queste variazioni in più del patrimonio erano raramente recepite dagli estimi e quindi raramente si aveva una ripartizione nuova nel corso tra due redecime. Invece prontamente venivano ridotti, con suppliche e richieste, i casi in cui ci fosse un impoverimento dei benefici. La deputazione ad pias causas concludeva la sua scrittura esortando dunque a procedere immediatamente al rifacimento delle rilevazioni. Questo rifacimento fu compiuto in 4 anni e nel 1773 vennero resi noti i risultati e si cominciò a riscuotere l'imposta sulla base di questa nuova rilevazione. Risultati grandiosi per la deputazione. L'imponibile triplicò e 1614 nuovi benefici risultarono compresi nei ruoli, cioè 1614 benefici che non figuravano due secoli prima. Questi si aggiungevano ai circa 6.000 benefici già esistenti, quindi grosso modo un po' meno del 30% di incremento. Si trattava di 847 benefici curati, 102 canonicati e 665 cappelle e benefici semplici. Cosa significasse questo? Cioè se in questi dati noi vogliamo vedere un fenomeno simile a quello riscontrato da Torre per il Piemonte, cioè l'apparrocchiamento, come lo chiama lui, oppure come l'ha chiamato lui, oppure la proliferazione degli altari e delle cappelle, resta il fatto che ecco, tutto questo richiederebbe un'analisi dettagliata di confronto tra i due catasti. Spero di riuscire a farla, ma non è un'operazione molto, molto veloce, dal momento che i benefici erano molti. E sono comunque ipotesi da considerare. Queste due redecime, 1564 e 1773, sono le uniche due conservate, archivisticamente presenti. Quelle precedenti, e soprattutto quella del 1463, che fu la prima, e sarebbe la più importante forse, sono purtroppo bruciate, come gran parte degli archivi finanziari veneziani, nell'incendio del 1514 di Rialto. Però resta il fatto che queste due redecime, il risultato di queste due rilevazioni, costituiscono senza dubbio una fonte privilegiata per lo studio del patrimonio ecclesiastico in tutto lo Stato veneziano. Di ogni beneficio noi possiamo ricostruire, poiché disponiamo della polizza, della dichiarazione presentata dal titolare o dall'amministratore, possiamo ricostruire appunto, questa polizza contiene un elenco dettagliato di tutte le entrate con la localizzazione dei beni, i nomi degli affittuari e dei livellari, con il dettaglio delle rendite in natura e in denaro e anche delle uscite, cioè le spese per la manutenzione degli edifici, le spese per le imposte e quelle per il mantenimento di tutto il personale che ruotava attorno al beneficio. Infine anche le posizioni debitorie. Un documento fiscale abbastanza comune, ma comunque non tanto, credo, per quanto riguarda i contribuenti ecclesiastici. È ovvio che i possibili incroci di questa fonte con le visite pastorali sono evidenti. Queste polizze o condizioni sono raggruppate infatti per diocesi e quindi possono essere facilmente utilizzate per integrare i dati sullo stato patrimoniale che sono presenti nelle visite. Questa fonte è particolarmente utile, credo, nei casi frequenti in cui le visite stesse siano incomplete o manchino del tutto di analisi dettagliate. Questo è vero soprattutto per le visite pretridentine, ma anche per un certo numero di visite successive al concilio. Anche perché è importante notare che siccome la fonte è, salvo qualche piccolo buco, diciamo, copre tutte le diocesi dello Stato, è veramente un sistema molto utile per integrare le visite. Questo utilizzo incrociato della fonte è stato in parte già fatto, per esempio integrando la visita di Gian Matteo Giberti a Verona da Nepton in un lavoro sulla Valpolicella. L'ha utilizzata Borelli per lo studio dei patrimoni dei monasteri veronesi, ma anche Keynes studiando le visite di Domenico Bollani. Nel caso degli enti regolari, specie i membri di congregazioni, non sempre o quasi mai visitati, questa documentazione è addirittura preziosa poi. Accanto a queste dichiarazioni dei singoli contribuenti, la fonte presenta poi una documentazione accessoria, registri riassuntivi per diocesi e per tutto lo Stato che hanno costituito la fonte primaria per queste mie note e per il lavoro complessivo sulla proprietà fondiaria veneta compiuto negli anni 60 da Daniele Beltrami. Ma si trova soprattutto una documentazione interessante di cui è difficile valutare la quantità, in quanto allegate a queste denunce vi sono atti episcopali che vengono presentati ai collettori, atti visitali che attestano la riduzione della capacità contributiva di un beneficio, cioè il vescovo, il suo incaricato, viene invitato a visitare, forse potremmo dire, la chiesa, il monastero, la cappella, e a redigere un verbale in cui spiega che ci sono state delle inondazioni, dei danni dovuti al maltempo. Questo documento viene trasmesso al collettore. Ma torniamo un momento alla questione fiscale generale. Nella legislazione veneziana ricorrono con frequenza, dal 200 in avanti, le leggi contro la proprietà ecclesiastica. Le proibizioni di fare lasciti e donazioni agli enti ecclesiastici, di testare in loro favore. Provvedimenti abbastanza frequenti, appunto, nella legislazione veneziana. Importanti sono soprattutto due leggi del 1536 e del 1605, la prima che impone entro due anni di vendere i beni che dallo Stato laico sono passati a quello ecclesiastico a Venezia, e nel 1605 questa norma viene estesa alla terraferma. Ma in genere vi sono molte norme, oltre a queste, e che non sono per nulla tipiche della situazione veneziana, vi sono molte norme, molte leggi contro la mano morta, che si ripropongono scopi molto simili a quelli dei riformatori settecenteschi, e si ripropongono soprattutto di impedire che i beni fossero sottratti al fisco. Il discorso di Torre sulle istituzioni di nuovi benefici come mezzo per rendere immune una parte del patrimonio delle famiglie non vale evidentemente solo per i piccoli benefici campestri, piccoli e medi, ma anche per i lasciti delle ricche famiglie cittadine, patrizie e non patrizie, in favore di monasteri, o per i benefici delle chiese e delle città, come del resto gli studi di Greco e Bizocchi hanno ben dimostrato. Si sa poco per questo fenomeno a Venezia, però quello che si sa è che le norme in materia di proprietà ecclesiastica contro la mano morta sono regolarmente disattese. Del resto, gli stessi risultati della redecima del Settecento ce lo rendono evidente. Quindi il patrimonio continuava a passare indisturbato dai laici ai chierici. Il fenomeno non poteva passare inosservato ai contemporanei, che anzi appunto si premuravano di reiterare queste leggi. E allora perché la redecima non viene più rifatta per due secoli dopo il 1564? Come mai Sarpi e i suoi successori, nell'incarico di consultore in iure, si affannano a combattere con forza i sistemi attraverso i quali il Papa drenava denaro da Venezia verso Roma? Soprattutto attraverso le tasse sulle provviste dei benefici, le annate ai comuni servizi, e poi attraverso la concessione delle commende e delle pensioni a ecclesiastici non locali. E infine, pretendendo i contributi dalle congregazioni regolari in maniera sempre più serrata. Sono temi di grande importanza ai quali accenno solo. Una proposta di rinnovare la base di conteggio della decima non arrivò mai, neppure ad uno stato avanzato di discussione, cioè vennero fatti alcuni tentativi ma si arenarono subito. Certamente l'opposizione papale della curia fu molto forte, ma in fondo non è che a Venezia fossero mancate le occasioni di scontro con la curia. Proprio negli anni successivi all'interdetto, infatti, si fecero questi tentativi. Era possibile che l'ostacolo fosse veramente quello che indicava Paolo Sarpi in un consulto del 1618, e cioè l'opposizione del clero dello Stato, l'opposizione che il clero dello Stato avrebbe fatto sicuramente a questa operazione? Oppure il fatto che ci sarebbe potuta essere un'opposizione di tutto il clero italiano nel timore che un rifacimento di un estimo di questo tipo a Venezia inducesse il Papa a un'operazione analoga dappertutto? Era possibile che Sarpi pensasse veramente che rifare questo estimo avrebbe portato ad un incremento notevolissimo del prelievo anche delle annate, cioè che un'operazione di questo tipo potesse essere utilizzata anche per aggiornare le tariffe fiscali sulle quali, base delle quali venivano riscosse le annate, e che quindi in realtà rifare l'estimo della decima avrebbe dato, sì, come dice Sarpi, un aumento di entrate per 10.000 ducati, ma avrebbe portato d'altro canto a un'uscita di 130.000 in direzione di Roma. È possibile che sia così, quando sappiamo che non fu mai, credo, neppure tentato un aggiornamento di queste basi sulle quali erano calcolate le annate? Il fatto che per ben 200 anni si resti con lo stesso catasto potrebbe invece voler dire che all'interno della classe dirigente veneziana non esisteva in fondo una maggioranza favorevole ad una maggiore tassazione sugli ecclesiastici, in quanto i membri del patriziato non solo controllavano le istituzioni ecclesiastiche locali, i benefici, e soprattutto quei grandi monasteri maschili e femminili che a Venezia detenevano la gran parte del patrimonio, ma i membri del patriziato erano anche vescovi, abati, titolari di commende e pensioni, canonici, titolari di ricche prebende in molte diocesi della terraferma e in particolare in modo massiccio nelle diocesi di Padova e Treviso. È ovvio che queste persone e le loro famiglie non avevano un interesse immediato nell'operazione del rifacimento del catasto. La prova finale di tutto questo mi sembrerebbe essere il fallimento delle leggi degli anni 20 del 600 che volevano rendere possibile il calcolo delle decime del clero, ma non solo del clero, anche sulla ricchezza mobiliare e in particolare sui cosiddetti livelli affrancabili, studiati da Gigi Corazzoni. Queste entrate nel 1773, cioè quando venne finalmente rifatta il catasto, costituirono un terzo del valore complessivo del patrimonio degli ecclesiastici, ma in alcune diocesi, per esempio quella di Brescia, che era una grossa diocesi, costituivano quasi la metà del patrimonio ecclesiastico. Ecco allora che, soprattutto se noi consideriamo che questo tipo di entrata sfuggiva per se stessa alla registrazione, furono fatti dei tentativi di obbligare i notai a denunciare a una sorta di ufficio del registro questi contratti, ma inutilmente. Il fatto che questo tipo di ricchezza sfuggisse in maniera così facile alle rilevazioni fiscali e che accomunasse questo tipo di ricchezza, il patrimonio degli ecclesiastici a quello dei laici, mi sembra che sia una dimostrazione evidente di quali potessero essere gli interessi nascosti dietro questo ritardo plurisecolare del rifacimento dell'estimo. Grazie. Perfetto anche nei tempi, ma soprattutto nel contenuto. L'intervento di Del Torre ci pone uno dei problemi, diciamo, più difficili dal punto di vista tecnico, appunto quello della tassazione sui beni ecclesiastici, eccetera, che è stato già al centro di un altro suo intervento per l'epoca precedente, anni fa, è un intervento che ricordiamo così come uno dei più incisivi. E propone anche oggi, mi pare, quello che a noi interessava dal punto di vista metodologico, cioè un esempio di intersezione tra la fonte visitale e altri tipi di fonte. Cioè, sul piano delle rendite credo che sia una delle cose più interessanti proprio la verifica di questo tipo di intreccio tra fonti diverse.